24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 45 secondi inizia questa terza parte di 24 Mattino di giovedì 28 maggio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Buongiorno, ciao Simone. Ascoltavo prima la tua conversazione col direttore Fabio Tamburini e bisogna dire che c'ha ragione quando dice che il Sole 24 Ore ha dato un suo contributo anche a rimettere in equilibrio certe cose, perché vediamo che l'Olanda ancora l'osso duro da convincere dopo la decisione comunicata da Ursula von der Leyen sui soldi che arriveranno in particolare all'Italia. L'Olanda è l'osso duro e bene ha fatto il direttore Tamburini a ricordare l'inchiesta che il Sole 24 Ore ha fatto, mettendo in luce l'Olanda come sede di un vero e proprio, diciamola tutta, paradiso fiscale accettato in Europa. Comunque adesso sarà da vedere quando arriveranno questi fondi e soprattutto se noi italiani saremo così furbi da utilizzarli per ammodernare il paese, renderlo più veloce. Sì, più che furbi corretti, insomma, se saremo bravi a farlo. Furbi nel senso, no, voglio essere precisa, sì. Sennò le parole hanno sempre un senso equivoco. Furbi nel senso di fare il nostro interesse. Il nostro interesse è modernizzare il paese, seguire indicazioni di green economy e digital e puntare sull'istruzione. Questo è essere furbi, non certo evadere le tasse o fare i furbetti, vivacchiare. Allora, iniziamo e oggi iniziamo dai numeri. In una giornata nella quale il solco tra nord e sud si è approfondito anche in termini di scontro verbale, cara Maria, anche i nostri ascoltatori hanno deciso di partecipare a questo nuovo derby di oggi. Carmelo, Lauricella, la sentiamo qualche voce? Iniziamo da qua, va. Ma non sono molto d'accordo sulla riapertura delle regioni, ma non è un fatto di razzismo. La Lombardia ha ancora dei numeri discretamente preoccupanti, per cui, considerato che qui al sud più che altro la situazione è grave, è quella economica, e avere dei nuovi contagi ci costerebbe davvero tantissimo. Da calabrese dico che quello che sento è vergognoso. Impedire a chi viene dalla Lombardia in Calabria o a chi va in Sardegna è una vergogna. Ma cosa c'è di così squallido, brutto e cattivo nel dire che la Lombardia non è ancora pronta per essere riaperta e che comunque sia l'indice di contagio in quella regione lì è ancora troppo alto? Mi piacerebbe sapere cosa diranno i vari Solinas, Emiliano, Musumeci e gli altri governatori del sud quando dovranno rispondere ai loro operatori turistici già in difficoltà, che non avranno il ricavato del turismo che proviene da Lombardia, Piemonte e da tutto il nord Italia. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta anche su questo, oltre che sulle questioni europee. 349-238-6666, come sempre, il numero per i vostri WhatsApp audio. Buongiorno Nino Cartabellotta, presidente di GIMBE, la fondazione per l'associazione Gruppo Italiano per la Medicina basata sulle evidenze. Cartabellotta, bentornato. Buongiorno Maria, vuoi iniziare tu? Cartabellotta. C'è molta confusione sulla raccolta dati a livello regionale, si legge di incongruenze nei numeri che devono essere raccolti dalle regioni, numeri che riguardano i nuovi contagiati, i tamponi fatti, il numero dei guariti, il numero dei decessi, dati che poi devono essere inviati al Ministero. Secondo alcuni, appunto, le regioni aggiustano i numeri per paura di essere fermate. Come stanno le cose? Guardi, noi con le nostre valutazioni indipendenti abbiamo ormai, con i nostri due comunicati stampa che riflettono analisi settimanali, documentato con varie, diciamo, modalità questa problematica, che di fatto sottende al fatto che Nella fase 2, quando c'era necessità di avere una raccolta dati molto più analitica, molto più precisa, molto più capillare, è un po' come se si fosse mollato tutto, o anche in conseguenza del fatto che, come sappiamo, dalla fine di aprile la Protezione Civile non fa più la conferenza stampa giornaliera, quindi è mancato anche quel momento di comunicazione. In generale però poi c'è un'altra problematica: il decreto del 16 maggio ha affidato interamente alle regioni la responsabilità del monitoraggio e delle eventuali misure in deroga, sia di tipo restrittivo sia di tipo ampliativo. È evidente che questa coincidenza di controllore e controllato può far sì che ci siano dei comportamenti di tipo opportunistico, quale uno tra tutti quello di effettuare meno tamponi diagnostici, e utilizzo questo aggettivo in maniera voluta perché il numero totale dei tamponi include anche quelli di controllo, che corrispondono a circa un terzo. Quindi quando noi dobbiamo testare quella che è la reale capacità di una regione di andare a cercare i nuovi casi, dobbiamo riferirci solo a quelli diagnostici, sottraendo quelli di controllo. Sì. È evidente che se si fanno meno tamponi diagnostici si identificano meno casi e si adultera anche il famoso indice RT. Per esempio nell'ultima valutazione di ieri ci siamo resi conto che la Valle d'Aosta, che è una regione che ha fatto un numero enorme di tamponi, ha piegato la curva in maniera eccellente, adesso si trova con un indice RT più elevato, che sembrerebbe quasi un paradosso. Ecco, il fatto di non avere previsto, anche dal punto di vista delle nuove linee guida per il governo, una linea guida adeguata per la fase 2 per l'esecuzione dei tamponi, cioè che ogni regione doveva dimostrare anche di effettuare un numero consistente di tamponi adeguato per la fase 2, fa sì che ci siano questi, diciamo, elementi di distorsione. Cartabellotta, questo ci porta a un tema che c'è dall'inizio. Allora, il tema della confusione sui dati c'è fin dall'inizio. Infatti spesso da questi microfoni abbiamo preso come parametro quello che succede all'interno degli ospedali, che almeno ti dà la misura di quanto il sistema sanitario è in grado di reggere, no? Quindi il riempimento delle terapie intensive, afflusso, esatto, verso gli ospedali e via dicendo, che almeno quello è un dato oggettivo. Qua si apre un grande problema che ha a che fare anche con le regioni del sud, perché il numero di tamponi effettuato da alcune regioni del sud è estremamente basso. È proprio così, infatti le strategie che si possono utilizzare nella fase 2 stanno a due estremi. La prima, quella di tipo attendista, tiene, diciamo, in considerazione come indicatori principali quelli che lei ha citato, cioè guardiamo se gli ospedali sono sufficientemente liberi per accogliere un eventuale sovraccarico di pazienti se ci dovesse essere una risalita della curva, e non andiamo a fare troppa ricerca di pazienti asintomatici per tutte le ragioni che ci siamo dette. La seconda invece, quella interventista, prevede di applicare correttamente la cosiddetta strategia delle 3T, cioè andare a fare un testing massiccio, tracciare il tracing, i contatti dei soggetti positivi, e poi treating, cioè metterli in isolamento domiciliare adeguato. A oggi, stando a dati che pubblicheremo stamattina, sono con embargo fino alle ore 10, ma ve li anticipo, le uniche due regioni che possiamo dire che stanno facendo un'attività di testing massiccio sono la Valle d'Aosta e la provincia di Trento, che da quando è iniziato si è stato allentato il lockdown, quindi dal 4 maggio, stanno facendo circa 4.200 tamponi per 100.000 abitanti in questo periodo, quindi è un numero, diciamo, abbastanza consistente. Sotto loro poi c'è la Basilicata e il Friuli, che stanno a 2002-2003. Le regioni più colpite, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e l'Emilia Romagna, stanno intorno a 1.200-1.500-1.600 al giorno. È evidente che queste enormi differenze si riflettono anche sui casi diagnosticati. Poi, come giustamente ha detto lei, ci sono regioni del sud, e cito in particolare la Puglia, la Sicilia e la Campania, che è vero che hanno molti pochi casi, ma è anche vero che stanno facendo un numero di tamponi per 100.000 abitanti che si collocano tra i 250 e gli 800. Cioè, il concetto è: il virus, se c'è, per trovarlo lo devi cercare. Se non lo cerchi, non è certo che non ci sia, perché ovviamente non attui quelle che sono le strategie adeguate di testing. Ovvio. Maria, prego. Allora, intanto, Cartabellotta, mi porto a casa il fatto che alla mia domanda, ma insomma le regioni aggiustano i numeri per paura di essere fermate, lei, con giustamente una terminologia accurata, ha risposto sì. Le regioni aggiustano i numeri per paura di essere fermate. Ho capito bene? Sì o no? Diciamo che c'è il ragionevole sospetto. No, mi dica sospetto. Sì o no. C'è il ragionevole sospetto che sia così. Che sia così, perfetto. Allora, Vado alla scusa Maria, solo successiva. Una piccola cosa, un'aggiunta a questo. C'è il ragionevole sospetto che lo stia facendo la Lombardia, Cartabellotta. Era la domanda che volevo farti, Simone. Ah, ok, allora, perfetto, allora siamo in linea. Siamo in linea, perfetto. I nuovi contagi si sono concentrati di nuovo in Lombardia. Sì. Il 65% dei nuovi 854 casi si trova in quella regione. Le chiedo due cose a questo punto. Una è quella che anticipava adesso Simone, la Lombardia è tra queste regioni che eventualmente aggiustano i dati? E secondo, ma perché in Lombardia i numeri sono ancora così alti? Ma la prima risposta è affermativa, anche perché in Lombardia si sono verificate troppe stranezze sui dati nel corso di questi tre mesi. Soggetti dimessi che venivano comunicati come guariti alla protezione civile, quindi andavano ad alimentare il cosiddetto silos dei guariti, alternanza e ritardi nella comunicazione dei dati e nella trasmissione, che poteva essere giustificata nella fase 2 dell'emergenza quando c'erano tantissimi casi, ma molto meno ora, e paradossalmente i riconteggi sono molto più frequenti in questa fase 2. Cioè, è come se ci fosse la sorta di necessità, voglio dire, di mantenere sotto un certo livello quelli che sono il numero dei casi diagnosticati. Alla seconda domanda rispondo in maniera molto semplice. La Lombardia probabilmente ha avuto questa enorme diffusione del contagio in una fase precedente al caso 1 di Codogno, e le misure di lockdown probabilmente, come avevamo chiesto noi anche all'inizio di marzo, dovevano essere molto più rigorose, molto più estensive. Cioè, noi addirittura chiedevamo proprio la chiusura dell'intera Lombardia, un po' come è successo a Wuhan, perché era evidente che quel livello di esplosione di contagio non poteva che essere testimonianza di un virus che serpeggiava in maniera già troppo diffusa già nel mese di febbraio. Questo non è stato fatto, sono stati poi ovviamente presi tutta una serie di non decisioni, per esempio la non chiusura delle zone di Alzano Lombardo e Nembro, che hanno determinato ovviamente tutto quello che è successo nella Bergamasca, che ricordiamo con le tragiche immagini delle bare di Bergamo, e poi una smania, diciamo, si consenta, quasi ossessiva nel riaprire, perché è ovvio che la Lombardia è il motore economico d'Italia. Però la nostra grossa preoccupazione è che in questo momento la situazione lombarda sia quella che ne uscirà per ultima da questa tragedia nazionale, perché se si chiude troppo tardi e si vuole riaprire troppo presto e, diciamo, si combinano anche dei magheggi sui numeri, si capisce bene che è ovvio che la volontà politica non è quella di dominare l'epidemia, ma è quella, voglio dire, di ripartire al più presto con tutte le attività, e questo non lascia tranquilli. Pensa che la situazione lombarda sia fuori controllo, Cartabellotta? Ma fuori controllo no, però che non si stia effettuando un'attività di testing adeguato, perché è chiaro che se io mi trovo con una prevalenza così elevata di casi, è evidente che i casi sommersi sono 10-20 volte quelli esistenti, e se non li vado a identificare, a tracciare, a isolare, questi continuano a girare e continuano a contagiare. C'è un po' un cane che si morde la coda. Cioè, io da un lato non voglio fare troppi tamponi per evitare di mettere sul piatto, diciamo, o alla finestra se preferite, troppi casi. Dall'altro però, non identificando questi casi, non tracciando e non isolando, alimento quella che è la fonte del contagio. Tanto che nella valutazione che stiamo pubblicando oggi, negli ultimi 23 giorni, che sono quelli praticamente dal 4 al 27 maggio, la Lombardia ha il 6% di percentuale tamponi diagnostici positivi. Ribadisco l'aggettivo perché se noi mettiamo al denominatore tutti i tamponi fatti, è chiaro che questa percentuale artificiosamente scende. La Liguria al 5,8 e il Piemonte al 3,8 sono di fatto le tre regioni che a oggi probabilmente rischiano di non poter avere le riaperture interregionali, tranne se il governo decide, diciamo con un ragionevole compromesso, no, di lasciare la mobilità interregionale in queste tre regioni del nord-ovest, peraltro confinanti, e poi gestire tutto il resto dell'Italia in maniera differenziata. Senta Cartabellotta, da settimane si parla del passaporto sanitario. I primi a avere questa idea sono stati alcuni paesi come la Grecia, la Croazia, proprio per gestire il turismo in forma, diciamo, più tranquilla, più sicura dal punto di vista sanitario. Alcune regioni italiane, la Sardegna per prima, ci stanno pensando. Lei pensa che possa funzionare, che sia un meccanismo troppo macchinoso? Ma guardi, mi faccio ricordare, diciamo, un film che ho visto con i miei figli tante volte, La corazzata Potionchi di Fantozzi. Cioè, la patente di immunità funziona proprio come la corazzata Bobbione. con Fantozzi che si alza in piedi, la patente di immunità, vabbè, insomma, sì, abbiamo capito. Per una serie di ragioni. Intanto qualunque test venga effettuato ha una validità, tra virgolette, legata alla fotografia temporale, diciamo, nel momento in cui viene effettuato. Cioè io posso anche effettuare il tampone d'oggi e contagiarmi domani mattina. Secondo, la patente viene spesso attribuita all'utilizzo dei test sierologici che di fatto hanno soprattutto una specificità molto bassa, cioè hanno troppi falsi positivi, ma in ogni caso anche se uno è negativo e quindi è ragionevolmente certo di non essere affetto dalla malattia, è evidente che può contagiarsi il giorno dopo, quindi non avendo la possibilità ovviamente di ripetere almeno a cadenza settimanale, poi non so quanto la vacanza possa durare, diciamo, per ciascuno di noi, per ciascuno che andrà in vacanza, ma se uno dovesse verificare questo tipo di status dovrebbe effettuare almeno un test settimanale, cosa che è assolutamente irrealistica. Quindi immaginare, voglio dire, di accettare turisti nella propria regione dotati di un test piuttosto che un altro è veramente qualcosa che mi ricorda la famosa corazzata Potionchi di Fantozzi. Grazie Nino Cartabellotto. Questa per notazione cinematografica, ogni tanto ci vuole, ve ne faccio anche una musicale. Stiamo guidando a fare spente nella notte se non passiamo tamponi. Quindi, ecco qua. Pure anche Battisti. Grazie, Cartabellotta. Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, Fondazione Associazione Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze. Stefano che ci chiama da Bologna, e tutti gli altri, aspettateci un attimo là, che c'è una pausa, poi magari sentiamo alcune delle vostre voci e poi parliamo di Europa è della grande notizia di ieri, grande notizia nel senso è molto importante, con Carlo Cottarelli. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. '24 mattino. Cara Maria, sentiamo un paio di ascoltatori, va Stefano. Vediamo che pensano. Sì, Stefano da Bologna. Stefano, buongiorno, ciao. Buongiorno a lei. Io sono, chiamo da Bologna, però sono originario della Sardegna. Davvero un po' grigia la roba, grigia, perché grigia. È impossibile chiedere un patentino per il Covid-19 nel mese di giugno, ci farebbe perdere tutta la stagione estiva, poi tu non puoi controllare tre navi che arrivano al giorno con 3.000 passeggeri dentro, i biglietti ogni giorno. Cioè, è una cosa logisticamente sì capisco benissimo il ragionamento di Stefano. Sentiamo anche Oscar dalla provincia di Bergamo. Oscar, eccoci, buongiorno. Io sono un bergamasco doc, però dico che la Lombardia ha sbagliato e ha sbagliato pagato, perché in Lombardia i nostri governanti credono di essere superiori a tutte le altre persone. Superiore, perché qua in Lombardia ci sono le fabbriche e noi pretendiamo che gli altri facciano quello che noi diciamo, perché noi distribuiamo. Perciò qualcuno ha sbagliato e paghi. Se ti dico di non uscire, tu non esci. Le regole vanno rispettate, ciò che la Lombardia non rispetta, non sono capace di rispettarle dai nostri governanti in poi. Io non do colpa alla Lega, alla sinistra o alla destra, hanno sbagliato, io sto pagando. Quindi Oscar, Oscar, è giusto che non si esca dai confini, in sostanza, dice, dai confini della regione. Si può uscire, non si esce. Punto. Oscar, e basta. Mi sembra che lei abbia un'idea molto chiara e mi sembra che molti lombardi ce l'abbiano. A un certo punto è anche una questione di responsabilità personale, no? Lei per esempio, certo, che farà? Andrà in vacanza? No, io ho già disdetto dove andavo io al mare, a Jesolo. Vedi? Ha disdetto, questo non farà, Oscar, piacere. A Jesolo, no, l'operatore turistico di Jesolo, capisco. Così è, chissà quanti l'avranno fatto, tra l'altro. Allora, veniamo appunto alle questioni economiche, perché il turismo ne è un pezzo rilevante della sofferenza, come tra l'altro racconta oggi il Sole 24 Ore, che stanno vivendo le categorie, che insomma forse potranno avere un aiuto dall'Unione Europea. Carlo Cottarelli, buongiorno, come sta? Buongiorno, bene, grazie. Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, ex direttore del Dipartimento Finanza Pubblica del Fondo Monetario, ex commissario per la revisione della spesa, tante cose. Maria, prego. Buongiorno, buongiorno Carlo Cottarelli. Buongiorno. Allora, intanto diciamo che la Germania sembra pronta a prendere finalmente la leadership di questa Europa. Il primo luglio comincia la sua presidenza, la presidenza appunto tedesca. Ursula von der Leyen è tedesca. Dovrebbe esserci una congiunzione astrale favorevole a che si arrivi rapidamente a una conclusione, perché i tempi sono importanti. Lei, Cottarelli, che previsione fa? Cioè, i soldi arriveranno quando? A gennaio del 2021? E da qui al 2021 lo Stato italiano come farà a venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle aziende, aspettando questa ingente massa di denaro? Poi vedremo come suggerire l'utilizzo, però intanto la domanda è: quando arrivano e come si fa il ponte fino a quando arriveranno? Ma questi soldi, per la maggior parte, anzi quasi niente, arriverà quest'anno. I soldi arriveranno, nella proposta della Commissione, dal prossimo anno. Ci sono, mi sembra, per quest'anno soltanto 11 miliardi e mezzo, ma non per l'Italia, 11 miliardi e mezzo per l'intera Unione Europea, quindi quasi niente. Come si arriverà? Ma in quest'anno abbiamo bisogno, credo, per almeno di 500 miliardi tra deficit e titoli di Stato che devono essere rinnovati. 220 miliardi più o meno arriverebbero dalla Banca Centrale Europea, tenendo conto degli annunci fatti finora. Dal meccanismo SURE credo potrebbero arrivare, quello credo sia già operativo quest'anno, in linea di principio dovrebbero arrivare 15-20 miliardi. E poi c'è il famoso MES, da cui potrebbero arrivare 36 miliardi, e speriamo di superare le preclusioni che adesso impediscono a molti di riconoscere che sarebbe una buona idea utilizzarlo. Quindi si arriva sui 270 miliardi, 275 miliardi, il resto viene dai mercati finanziari, da residenti italiani e stranieri che dovrebbero rinnovare i loro titoli di Stato in scadenza. Per ora non ci sono stati grossi problemi, noi quest'anno abbiamo già emesso circa 220 miliardi di titoli senza grossi problemi. Tassi di interesse sono rimasti bassi, mi sembra che ieri abbiamo chiuso col BTP a 10 anni a 1,55%, o forse un po' meno, 1,52%, quindi un tasso basso. C'è stato un ottimo afflusso di domanda per il BTP Italia. Li ha comprati anche lei, vero? Sì, li ho comprati anch'io. E credo che insomma per quest'anno, alla fine, se non ci sono enormi sorprese, bisogna stare attenti, che sorprese ce ne sono a ogni momento, io credo che quest'anno il si riesce a superare, vediamo, e poi il prossimo anno appunto c'è tanta incertezza su quello che farà il PIL e la crescita. Cosa fondamentale è tornare a crescere più presto. Allora, dal lato europeo naturalmente dovremo vedere che cosa accadrà a Cottarelli, perché insomma adesso questa proposta della Commissione Europea, che è sicuramente importante politicamente, poi dovrà passare al vaglio del Consiglio Europeo e vedremo che cosa emergerà dal Consiglio Europeo, posto che il paese capofila dei frugali, quello che consideravamo il capofila dei frugali, ossia la Germania, di fatto è favorevole ad un piano di questo genere. Nel momento nel quale si arrivasse ad un accordo, magari anche in scala ridotta, ci sarà da decidere cosa fare con questi soldi, no? In queste ore sta circolando l'ipotesi di un taglio delle tasse, ma con quei soldi che sono un una tantum, i tagli delle tasse non si possono fare. Beh, mi sembra di no. In realtà questi soldi saranno presi a prestito insieme in Europa e si deciderà insieme come utilizzarli. Credo che saranno importanti le raccomandazioni che sono state date all'Italia dalla Commissione Europea come parte del semestre europeo. Cosa dicono queste raccomandazioni? Dicono di fare cose ragionevoli, usare questi soldi, non sono esplicitamente per usare questi soldi, ma si dice l'Italia dovrebbe investire investimenti pubblici, mettere a posto la propria pubblica amministrazione, renderla più efficiente, quindi per esempio tutte le spese che riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Si parla esplicitamente di un movimento verso un'Italia digitale più in generale. C'è un problema di giustizia che deve essere risolto, una giustizia che è troppo lenta, che è un danno fondamentale per l'economia italiana. Quindi sono tutte cose che mi sembrano molto, molto ragionevoli. E quindi il problema del taglio delle tasse è che quello è un taglio permanente, non si può fare non si dovrebbe fare una riforma dell'IRPEF temporanea, ecco. E quindi quello dovrebbe essere finanziato con fonti permanenti di finanziamento. Qui i soldi ce ne sono tanti e rimangono anche per un periodo abbastanza lungo, sono distribuiti sull'arco di 4 anni, però non è che sono lì per sempre. Senta Cottarelli, d'altra parte, se i fondi arrivano e sono garantiti anche dal contribuente danese o dal contribuente austriaco, bisognerà pur dimostrare che li spendiamo bene. Lei parla di modernizzazione della pubblica amministrazione attraverso il digitale e di riforme che si devono fare. Come ci sarà, secondo lei, questa corrispondenza, tipo i soldi arrivano e poi chi controlla, con quali tappe si controllerà che siamo sulla pubblica amministrazione, che è importante che questa venga digitalizzata e modernizzata, chi farà questo controllo? Beh, questo non è chiaro, non è chiarissimo, però non sarà neanche facilissimo, perché insomma andare a vedere poi in pratica come si sono fatte riforme di questo tipo non è come dire il deficit deve scendere di un tot, il debito di quello si può andare a misurare, ma credo che andare a misurare le azioni, a verificare le azioni che vengono intraprese, sarà complicato. La Commissione europea ha sempre fatto una vigilanza sull'Italia e sugli altri paesi dell'Unione europea come azioni di routine, quindi immagino come parte della loro azioni di vigilanza vedranno i progressi che si fanno nel campo della riforma, per esempio della pubblica amministrazione. Non sarà facilissimo, però dovranno, e non è stata ancora fatta una proposta, qui vedremo come intendono organizzare questa cosa. Enrico Letta ha fatto una proposta con un'intervista qualche giorno fa, ha detto facciamo sì che sia direttamente l'Unione Europea a dare i soldi là dove vanno dati, quindi in qualche modo tagliando fuori i governi nazionali, una proposta che immagino non sia molto piaciuta ai governanti dei singoli paesi. Lei la considera una buona idea? Ma a me è sembrato che Ricoletta abbia detto una cosa un po' diversa, che sarebbe utile in alcuni casi che i soldi fossero erogati direttamente all'Unione Europea, perché appunto se la gente vede erogare dall'Unione Europea un sussidio di disoccupazione, cioè arrivano a casa direttamente i soldi con sull'assegno emesso dall'Unione Europea, questo serve ovviamente a rinforzare l'idea che l'Unione Europea fa qualcosa di utile. Quello si tratta, non si tratta di amministrare i soldi, se dobbiamo fare degli investimenti in Italia, ma credo che inevitabilmente dovrebbero essere fatti dall'amministrazione italiana. Il grande timore, Cottarelli, e lei lo sa perfettamente, è il modello all'Italia, cioè il concetto è questo, ci dai i soldi e poi noi italiani li prendiamo e invece di appunto di digitalizzare la pubblica amministrazione, sveltire il processo civile, digitalizzare la giustizia, magari, che ne so, visto che c'è per esempio la questione green, no? Gli investimenti green, che ne so, fare un maxi piano di incentivi per una virata sulle auto ibride, tanto per fare un esempio, alla fine si finisce per, no, sganciare quattrini, la dico brutta, a babbo morto. Ecco, il rischio è un po' questo. Sì, il rischio c'è, e quello c'è però anche con i soldi che non ci vengono dall'Unione Europea, ma questi c'è. I nostri soldi. Sì. Infatti vediamo cose di questo genere nel decreto, questo rilancio. E questo è un po' un problema di carattere più generale. Adesso lo Stato italiano può fare ampio ricorso al deficit, quest'anno si andrà oltre il 10% del PIL, parecchio alto secondo me, no? 10,4% come dice il governo, si andrà più in alto, e questo darà a molti l'impressione che non c'è più il vincolo di bilancio, si potrà continuare andare a prendere a prestito tutti i soldi che si vuole, ma non ci sarà il vincolo di bilancio non soltanto per lo Stato ma anche per famiglie e imprese che ricevono soldi dallo Stato. E se ci si mette in mente che ormai i soldi piovono dal cielo da qui all'infinità, beh, è la fine dell'efficienza economica, Cioè, in pratica, perché io devo andare a lavorare se i soldi me lo dà lo Stato per i prossimi 10 anni? In realtà non è così, dovrebbe essere chiaro che siamo in una situazione di emergenza in cui lo Stato gli dà i soldi perché è necessario, però non può andare avanti per sempre così, perché appunto è la fine dell'efficienza economica. Degli incentivi, insomma, più niente. Abbiamo addirittura un ascoltatore, Maria, che dice: lo Stato italiano non deve gestire soldi, proprio, cioè, per definizione. Mi fido talmente poco. Mi fido talmente poco. Secondo me non è solo lui. Senta, Cottarelli, mentre da noi qualcuno, se non sbaglio, il ministro degli esteri Di Maio ha detto: bene, useremo i soldi che arrivano dall'Europa per ridurre le tasse. Ed è vero che le tasse in Italia sono molto alte. Però in Europa c'è chi discute invece di aumentarle, addirittura le tasse. È il titolo di apertura delle Figaro di questa mattina, molto preoccupato, è il giornale conservatore francese, che dice: di fronte alla crisi c'è la tentazione del governo di aumentare le tasse ai ricchi. Mi fa capire questa visione che è un po' strabica, no? Noi stiamo parlando in Italia, sognando forse di diminuire le tasse, ma in Francia invece pensano di aumentarle, quantomeno ai redditi molto alti. Come mai abbiamo queste visioni così diverse nella stessa Europa? Beh, non lo so adesso se effettivamente il commento di Figaro arrivasse effettivamente una proposta che c'era o voci e così via. Io credo che in questo momento, indipendentemente dall'opportunità di cambiare la struttura della tassazione in un paese o nell'altro, ma in questo momento credo che anche come segnale eviterei di aumentare qualunque tassa. In questo momento dobbiamo fare deficit per dare una spinta macroeconomica alla domanda, bisogna comprare di più, quindi eviterei al momento di aumentare le tasse. Nel medio termine, io in generale credo ci sia anche in Italia la necessità di abbassare le tasse, però bisogna trovare fonti di finanziamento, no? Bisogna cercare di, se riduciamo l'evasione fiscale e se magari, come dico, non adesso, ma riusciamo a risparmiare qualcosa evitando gli sprechi della spesa, le cose che non sono prioritarie, allora possiamo anche decidere di abbassare le tasse. Ormai bisogna dirlo bisogna dirlo sommessamente questa cosa di tagliare la spesa, perché no, la via ormai è un'altra. In questo momento bisogna sempre evitare gli sprechi, questo non c'è dubbio. Allora cominciamo perlomeno negli aumenti di spesa che stiamo facendo adesso, evitiamo gli sprechi. Dal punto di vista della necessità di dare domanda all'economia, questo non è il momento di tagliare, però se dobbiamo fare investimenti pubblici, per fare un esempio, evitiamo di andare a scavare buchi per terra e poi richiuderli, come diceva paradossalmente, naturalmente, Keynes nel capitolo 10 della sua teoria generale sull'occupazione di interesse e moneta. Facciamo opere pubbliche che servono effettivamente, quindi bisogna comunque mantenere un occhio a evitare degli sprechi, anche nell'aumentare la spesa. Maria. Senta, Cottarelli, ma se lei dovesse parlare appunto a dei trentenni, dei 25enni, che devono riaggiustare un po' la vita e pensare al domani. Per molti di loro questi ultimi 10 anni sono stati l'idea appunto che si potesse vivere sui servizi, molti hanno gestito Airbnb, molti si sono aperti la loro piccola ristorazione, una pizza a taglio, eccetera. Poi è arrivato il Covid-19 e tante micro aziende non riapriranno, purtroppo. Allora, se vogliamo usare i soldi europei per ripartire e modernizzarci, che idea di produttività dobbiamo avere? Perché abbiamo visto che puntare solo sui servizi è molto rischioso. Sì, però io non mi sento di dare da questo punto di vista consigli di investire in questo settore piuttosto che un altro, ma fondamentalmente perché ritengo che questo lo debbano decidere i singoli operatori, quello che tra virgolette si chiama delle volte il mercato, ecco. Cioè anche nei piani per l'espansione dell'Italia, io farei piani che semplificano l'Italia, che rendono più facile investire, piani in cui effettivamente se riusciamo a risparmiare un po' sulla spesa e riduciamo l'evasione fiscale comportano più tasse più basse per tutti. Questo è un principio fondamentale secondo me, per me, sono poi gli operatori economici che devono decidere investire in un settore o in un altro. Si possono fare certe eccezioni, nel tipo appunto Industria 4.4 è stata una buona iniziativa, però anche quella era rivolta a tutte le imprese che facevano certe operazioni di digitalizzazione, di ammodernamento. Ma non credo sia una buona idea in generale per lo Stato dire espandiamo più un settore piuttosto che un altro, perché allora si arriva alla pianificazione economica e vabbè, può piacere o non piacere, io non credo sia una grande idea. Grazie Carlo Cottarelli per essere stato con noi, buona giornata, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, buona giornata Cottarelli. Cara Maria, arrivederci, però ci sono paesi come la Germania che per esempio guardano al futuro e decidono da che parte investire, per esempio sulle tecnologie, altri paesi europei stanno elaborando dei piani. Ma tu puoi parzialmente indirizzare ritenendo che alcuni settori siano strategici senza arrivare, come diceva Cottarelli, alla pianificazione economica. Insomma, mi sembra ovvio, insomma, nel momento nel quale fai degli incentivi per l'innovazione tecnologica genericamente intesa, come nel caso di Industry 4.0, insomma, quello è un elemento, insomma. Va bene, cara Maria, ci sentiamo domani 8:20 con tutti gli altri ascoltatori alle 6:30 e domani mattina Carmelo Lauricelli regia, Miriam Lucchetti, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, la nostra squadra. A domani, ciao.